9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Come si diceva, oggi vedremo di ragionare un po' insieme a voi, naturalmente, anche che ci potete chiamare all'800 24 00 24 o scriverci sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24 o scrivere a me, se volete, Simone Spezia, su Twitter. Ragioneremo un po' del clima che si respira nel paese, collegato in parte naturalmente alla vicenda, alla proposta, all'idea di introdurre una qualche forma temperata o meno di ius soli, ossia diritto per i figli di immigrati, i figli di stranieri che nascono in Italia, di ottenere la cittadinanza. Temperato o meno, vedremo che cosa vuol dire. Il clima che si respira nel paese, insomma, gli insulti al ministro, chiedo scusa per l'errore nella pronuncia, in questo caso non so, spero che mi perdonerete, gli insulti al ministro Kyenge che arrivano anche via SMS, al 349-238-6666. Kyenge torna in Congo, ci scrive Mario via SMS. Questo è un po', insomma, un'idea di clima che si respira. Avete visto anche ieri cori razzisti di nuovo contro Balotelli. Insomma, non è che vogliamo fare un fritto misto di tutto, però, insomma, ragionare anche di questo insieme naturalmente alla questione dello ius soli. A chi ci dice: ma dobbiamo proprio affrontarlo ora il problema della cittadinanza, ci sono problemi urgentissimi come economia e riforme da affrontare. Altri ci scrivono sulla nostra pagina Facebook: lo ius soli in questo momento è un'arma di distrazione di massa. Insomma, può darsi anche che abbiate ragione. Certo è che in questo momento parlare di economia e di provvedimenti economici è parlare del nulla, se considerate che le ipotesi continuano a rincorrersi senza soluzione di continuità. Oggi il Corriere della Sera parla di un ministro Saccomanni intenzionato non solo a sospendere il pagamento della prima rata IMU per le prime case, ma forse anche per i fabbricati industriali e agricoli che rischiavano una fortissima botta. Si parla di una possibile riforma dell'IMU che comprenda una revisione della TARES, una revisione anche della cedolare secca sugli affitti che potrebbe essere cancellata, e forse anche l'imposta di registro sulle transazioni immobiliari e quella ipotecaria e catastale. Quindi tutto avvolto nella più grande incertezza. L'unica certezza che abbiamo probabilmente è nuove tasse, a dir la verità, perché ieri in Parlamento un emendamento dei relatori al decreto sui debiti della pubblica amministrazione ha inserito di fatto l'accisa sulle sigarette elettroniche. C'è già sulle sigarette normali, sui tabacchi normali, bene, c'è anche sulle sigarette elettroniche. Quindi oggi affrontiamo questo tema. Saluto Gennaro Migliore, capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà alla Camera dei Deputati, buongiorno. Migliore è caduto, eccolo qua. Giulia Di Vita del Movimento 5 Stelle, eccola qua. Buongiorno, lei, buongiorno a tutti. Lei invece c'è, il cellulare prende. Ho sentito molti distinguo all'interno del Movimento 5 Stelle su questa questione. L'idea vostra è che sostanzialmente si debba fare un referendum, ma per fare un referendum, in questo caso un referendum propositivo sullo ius soli, bisogna cambiare la Costituzione. Insomma, se vi trovaste di fronte a una proposta di legge, che cosa fareste a quel punto? Beh, intanto, insomma, stiamo parlando di qualcosa che dubito fortemente che possa accadere, perché nutro, diciamo, forti perplessità riguardo la possibilità del ministro dell'integrazione di portare avanti questa proposta di legge proprio per la formazione, la conformazione stessa del governo. Comunque, dal nostro punto di vista, noi ci ritroviamo chiaramente con lo spirito della proposta, quindi dello ius soli. Noi siamo assolutamente su questa linea, cioè riteniamo sacrosanto il diritto di figli di stranieri che hanno sempre vissuto in Italia e che quindi hanno formato la loro famiglia in Italia, un diritto appunto sacrosanto, quello di acquisire a tutti gli effetti la cittadinanza. Quello che noi però riteniamo fondamentale è appunto quello di riuscire in qualche modo a far partecipare direttamente tutti i cittadini a una decisione di questo tipo, e quindi per questo abbiamo pensato che lo strumento migliore, insomma, ormai è risaputo appunto che il Movimento 5 Stelle propone strumenti di democrazia diretta, quindi diciamo lo strumento migliore per noi è appunto il referendum. Nel caso in cui ci dovessimo trovare davanti a questa proposta e quindi dovessimo decidere, sicuramente in assemblea il gruppo parlamentare continuerebbe il dibattito, quindi arriveremmo a una posizione diciamo condivisa, come facciamo sempre per qualsiasi tipo di proposta, di argomento che dobbiamo trattare e siamo chiamati a decidere. Sicuramente potremmo anche pensare di fare come dire, un sondaggio, un referendum online, come abbiamo già provato a fare in altri casi, come per esempio per la scelta del candidato Presidente della Repubblica. Quindi questa potrebbe essere una delle idee che possiamo mettere in campo. Quindi in sostanza non c'è una pregiudiziale del Movimento 5 Stelle nei confronti di questo argomento come era sembrato almeno No, no, all'inizio. assolutamente. Gennaro Migliore, capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà alla Camera, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Si faccia prima di tutto però fare una domanda sull'altro tema e forse anche quella è un'arma di distrazione di massa, come ci scriveva qualche ascoltatore su Facebook, così come la questione dello Ius Soli, ossia la questione della giustizia di quello che è successo a Brescia. C'è qualcuno nel PDL che dice Sinistra Ecologia e Libertà deve chiedere scusa per l'aggressione che è avvenuta in piazza, insomma, vi intestano sostanzialmente questa colpa, la colpa anche delle violenze. Lei cosa dice? Guardi, innanzitutto noi non abbiamo mai partecipato a nessun tipo neanche di contestazione. Eravamo in una manifestazione insieme ad altre forze, c'erano presenti militanti del Partito Democratico, gente comune con le famiglie, c'era anche, se non erro, un banchetto del Movimento 5 Stelle. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria aggressione che è stata fatta dai ministri a partire da Alfano, ma non solo, che sono andati ad aggredire un libero potere costituzionale che è quello della magistratura, con frasi intimidatorie che dette dal vicepresidente del Consiglio, avallate dal vicepresidente del Consiglio, non possono che destare inquietudine. E dall'altro lato c'è stata una contestazione che noi ovviamente riteniamo, diciamo così, espressione di un malessere che c'è e che condanniamo nelle forme violente che magari si possono essere determinate e che però veramente solo l'idea di poter attribuire a noi è assolutamente risibile per quanto ci riguarda. Noi non partecipiamo per scelta e per consuetudine a nessuna forma di manifestazione violenta. Sappiamo benissimo che cosa vuol dire fare delle manifestazioni che possono generare anche tensioni, non ci siamo dentro quella trappola e riteniamo che il PDL stia esattamente facendo questa azione per non discutere di ciò che oggi anche il Presidente del Consiglio Rigoletta è costretto ad ammettere, cioè che se continua così, questo che è un esecutivo che per noi è già nato male, finisce anche peggio. E questo secondo me è il dato. Dal nostro punto di vista non c'è nessuna intenzione di partecipare a questa polemica alimentata peraltro da frasi ingiuriose e inaccettabili da parte di un giornalista non nuovo a queste esibizioni come Sallusti, che ha etichettato la Presidente della Camera in modi sessisti, assolutamente inaccettabili, che rappresentano, diciamo, quella cultura politica e quella subcultura di insulto che caratterizza la destra italiana. Migliore, veniamo al tema che abbiamo deciso di trattare oggi. Io non so se ha avuto modo di sentire interamente la risposta di Giulia Di Vita del Sì, l'ho Movimento sentito. 5 Stelle. Insomma, quindi in realtà, come dire, rispetto a quel che sembrava all'inizio l'apertura da parte dei 5 Stelle c'è evidentemente su questo tema. Vorrei capire esattamente come la vedete voi da una parte e dall'altra parte vorrei una sua riflessione sul clima che si respira nel paese. Io leggevo poco fa un SMS che ci è arrivato, naturalmente è un caso isolato, no? Tra i tanti, però un ascoltatore ci scrive Chieng torna in Congo. Insomma, voglio dire. Guardi, posso dire una cosa? Posso mi permetta di magari di avere una, di un tono che magari lei non condividerà, però io quando c'è un insulto anonimo, e non, l'ho sentito anche prima che l'aveva citato, francamente direi che bisognerebbe cercare di evitarlo, anche perché quello che cercano questi insultatori anonimi, queste persone che fanno della violenza verbale il loro unico strumento perché dotati di poca capacità argomentativa, secondo me vanno isolati, e quindi non è semplicemente l'espressione, la manifestazione di un'opinione, si tratta di una vera e propria volgarità che peraltro si cela anche, come nella migliore tradizione dei razzisti, sotto un cappuccio. Ci sono quelli che si incappucciano sul serio con i cappucci del Ku Klux Klan e chi si incappuccia sul web e, oppure attraverso un anonimato che vuole istigare alla peggiore delle violenze, che è quella della discriminazione razziale piuttosto che omofoba, che sessista, e che rappresenta un come dire, il punto più basso della civiltà occidentale, che purtroppo però l'attraversa ancora. Rispetto al Movimento 5 Stelle devo dire che io ero sicuro che tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle e anche tra gli elettori del Movimento 5 Stelle non ci siano pregiudiziali. Le parole di Grillo mi hanno ovviamente messo la preoccupazione, perché Grillo, sappiamo, ha un'influenza piuttosto importante su quel movimento, anche perché fa appello a un referendum che non si può fare, perché i referendum nel nostro ordinamento sono solo dire che Grillo ha una certa influenza su quel movimento è eufemistico, insomma, tutto sommato. Sì, vabbè, ma io diciamo così, ho volutamente. Poi sentiamo Giulia Di Vita anche su questo. Però il punto è che non si può fare un referendum su una materia del genere, perché non si può abrogare una legge che non c'è, cioè non è che si fa una modifica costituzionale con un referendum. Detto questo, io penso che noi dobbiamo innanzitutto smontare la tesi, perché è quella che più secondo me è insidiosa e mi interessa, di quelli che dicono ci sono prima altre questioni da affrontare, perché c'è la crisi economica, perché, come ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle, il problema al Senato, il problema è quelli che perdono la casa, eccetera. Allora, qui si tratta di dire innanzitutto una cosa, cioè che ci sono delle riforme che vengono attese da tutta una vita, e non è mai il turno di queste persone che non possono godere di diritti fondamentali perché c'è sempre qualche emergenza che li sopravanza. Io penso che questo sia sbagliato, anche perché con tutti i ministri che ci sono e con la possibilità di fare una modifica che peraltro genererebbe un circuito anche economicamente virtuoso, oltre che necessario dal punto di vista dei diritti, perché la cittadinanza di persone che vivono da noi, stanno nelle scuole con i nostri figli, parlano meglio dell'italiano di tanti di quelli che magari sono residenti all'estero e che non sono mai venuti in Italia, che però sono cittadini italiani per ius sanguinis, rappresenta, diciamo, un elemento di base, di civiltà. C'è bisogno su questo di trovare una convergenza parlamentare per ottenere sicuramente, per quanto riguarda le forze che hanno presentato questo come il primo punto, quelle di Italia Bene Comune, come il primo punto da attuare in un eventuale governo di cambiamento, di trovare una convergenza che secondo me anche a destra troverà. Anche a destra, sì, secondo lei si può trovare. Allora, la interrompo, abbiamo una pausa. Devo dire a Francesco, che mi scrive su Twitter, ma un contraddittorio o no? Sì, con calma, tra poco, subito dopo la pausa, sentiremo qualche ascoltatore, avremo anche, che in realtà vedo dalla lista ci sono molti, molti immigrati che hanno voluto chiamare in linea con noi, li ascolteremo naturalmente, quindi non sarà un contraddittorio in questo caso, ma avremo ospite anche un esponente leghista. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatori. Massimo Bitonci, capogruppo della Lega Nord al Senato, buongiorno. Niente, oggi con i telefoni abbiamo una serie di problemi. Prima è caduto Gennaro Migliore, adesso Bitonci. Isar, dalla provincia di Padova, buongiorno. Isar. Buongiorno. Sì, prego, prego. vivo qui da 99 con la mia famiglia in modo regolare, no? E ho due bambine da 11 anni e l'altra 6 anni che sono nate qui in Italia, ovviamente. Allora, avete messo due questioni, razzismo e diritto a cittadinanza. Sul razzismo, vabbè, i cori dicono da sé, e le porto un episodio a mia figlia, è successo in asilo, dove i bambini di 6 anni gli hanno detto torni a casa tua, e ho chiuso il questo del razzismo. Invece questo diritto a cittadinanza stanno giocando con i bambini per non affrontare il diritto a cittadinanza, chi lo domanda? Io ho fatto domanda regolare da 3 anni e mezzo e lo Stato non risponde. Cioè. Da quant'è che è in Italia lei regolarmente, intendo? Dal 1 aprile 99. E ho fatto domanda regolare 3 anni e mezzo fa per la cittadinanza, per ottenere la cittadinanza. Non ho mai preso una multa in vita mia. E sulla questione del diritto innanzi ai miei figli è sacrosanta, perché loro vivono 365 giorni all'anno qui in Italia, vanno alle scuole qua in Italia, preferiscono che parlano l'italiano, non hanno nulla della sua figlia, insomma. E anche lei, devo dire, Isar, ormai parla addirittura con l'accento delle zone nelle quali vive. Sentiamo anche Hassan da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Io invece sono 25 anni che vivo in Italia e il mio primo bambino oggi ha 18 anni, no? Siamo tutti cittadini italiani, ma la gente è quella che non capisco, perché qualche movimento politico ancora oggi continua a dare dei colpi di razzismo in giro, perché l'Italia ormai è multietnica e ci sono tanti nascituri oggi in tutti gli ospedali in tutta Italia, e il problema è l'inclusione sociale di questi nuovi cittadini. Praticamente i miei bambini in Marocco non vogliono più andare, perché sono abituati qua in Italia. Ormai anch'io sono diventato italiano di abitudini, nel senso non riesco più, anche per la crisi oggi, non riesco più a tornare a casa, perché ormai mi sento italiano a tutti gli effetti. Pago le tasse. Oggi un amministratore locale della Lega Nord, di quelli che attaccano gli immigrati, purtroppo non ha mai pagato come quello che ho pagato io. Un trentenne oggi, che io ho quasi 50 anni, ho pagato l'Italia quasi 25 anni di tassi. Non riesco a capire perché questo diritto non possono averlo i miei figli o quelli figli di tutti gli immigrati, perché ormai sono integrati e anzi si comportano a casa come italiani, perché mangiano solo pizza e spaghetti e cibo italiano. Non riesco perché questi bambini non hanno il diritto di avere tutta... Ci deve essere in automatico dalla nascita italiano, perché anzi è un bene per l'Italia, perché di no? Grazie Hassan. Io spero che queste testimonianze le abbia sentite Massimo Bitonci, capogruppo della Lega Nord al Senato, che siamo riusciti a recuperare, era caduta la linea. Allora, che dice Bitonci? Buongiorno. A tutti. Sì, ho ascoltato queste due testimonianze, che però sono sinceramente un po' atipiche, perché quando un extracomunitario vive per 25 anni in maniera continuativa nel nostro territorio, ovviamente dopo i 10 anni può, come è previsto a normativa, chiedere la cittadinanza. Ma i figli no, i figli no, devono stare 18 anni in Italia. Sì, ma guardi, quando un cittadino dopo 10 anni ottiene la cittadinanza italiana, dopo i figli possono diventare cittadini italiani. Molti casi che vengono anche rappresentati in questi giorni sono di cittadini extracomunitari che non sono residenti nel nostro territorio in maniera continuativa, o che non hanno fatto la domanda di cittadinanza, perché la normativa è vero che è rigida, però è uguale per tutti, per cui se bisogna migliorare la procedura è, secondo me, dal mio punto di vista, solo nel ridurre i tempi per la domanda. Questo l'abbiamo sempre detto, cioè nel senso che passati i 10 anni, magari anche prima, si può raccogliere tutta la documentazione in modo che i 10 anni non diventano 12-13 anni, come è la media poi italiana, e quindi al compimento dei 10 anni di residenza si possa ottenere velocemente la residenza italiana. Però ridurre i termini e i tempi per la cittadinanza, noi l'abbiamo sempre detto, è secondo noi un grave errore, perché ci vorranno almeno 10 anni per capire quali che sono la lingua, la cultura, le tradizioni, magari anche della nostra gente. E io penso che questo sia un termine, come lo pensano molti cittadini in realtà, un termine minimo. Io che ho fatto il sindaco per molti anni, le devo dire, sono rimasto molte volte imbarazzato perché le ho fatte io direttamente anche le cittadinanze, quindi giuramenti di cittadinanza. Ho trovato dei casi, ci sono stati dei casi eclatanti nel veneziano l'anno scorso, nel comune di Martellago, dove è successo anche a me, dove c'erano dei cittadini, soprattutto delle donne, che scrivevano a malapena, ma capivano a malapena la lingua italiana nel momento del giuramento. Cioè non possiamo pensare che questi diventano cittadini italiani se non sanno la lingua e se non conoscono un minimo di quelle che sono gli usi, i costumi, le tradizioni della nostra gente. Sì, però rimane la questione dei figli, perché è un'altra questione quella, Bitonci, no? Scusi, quando abbiamo un ascoltatore che ci dice, insomma, i miei figli sono cresciuti qua, stan qua, fanno la scuola qua, no? Ma il cittadino di prima, in quanti anni ha ottenuto la cittadinanza italiana? Cioè, questo dobbiamo chiedercelo. Perché non ha fatto subito, sono passati 25 anni, adesso non ha chiarito bene la posizione, ma come mai sono passati 25 anni e non ha ottenuto prima la cittadinanza italiana? Perché a me risulta che quando uno diventa cittadino italiano, automaticamente i figli, facendo domanda, poi lo diventano. Quindi è una cosa sempre questa che non viene spiegata bene. In realtà queste persone che dicono che sono 20 o 30 anni in Italia non lo sono stato in maniera continuativa, perché uno ovviamente dei requisiti necessari è quello che uno viva nel nostro territorio in maniera continuativa. Se uno è andato avanti e indietro dalla Tunisia o dal Marocco o da un altro paese e quindi non è stato nel nostro territorio in maniera continuativa, è logico che non ha potuto ottenere la cittadinanza. Un'altra cosa poi che non viene detta è che la normativa prevede che ci sono anche dei casi particolari, perché se sono discendenti per esempio di italiani, come insomma avendo avuto in Italia un problema molto importante di emigrazione, per esempio verso le Americhe o verso l'Australia, i discendenti in 3 anni ottengono la cittadinanza italiana. E come i comunitari, anche questo è un caso che non viene mai ricordato, perché questo vale per gli extracomunitari, però i comunitari ottengono la cittadinanza, quindi i rumeni, in soli 4 anni, quindi un tempo direi estremamente breve. Sì, magari poi su questo ci ritorniamo, perché io coltivo la convinzione, magari sbaglierò, e non è per fare buonismo, è che magari siano più italiani i figli di Hassan che i nipoti di un oriundo, insomma, ecco, in tutta sincerità. Però insomma, magari adesso ci torniamo. Voglio tornare a Giulia Di Vita del Movimento 5 Stelle, che abbiamo abbandonato un po' dall'inizio della trasmissione, e chiederle un attimo che effetto le hanno fatto un po' queste testimonianze, insomma, no? Anche a immaginare una possibile proiezione sulle decisioni del movimento in merito a questo. Sì, diciamo, le testimonianze che abbiamo sentito sono la chiara prova che comunque questa è un'esigenza sentita a cui sicuramente dobbiamo dare una risposta. Io mi volevo ricollegare a quello che ho sentito dire dal collega della Lega riguardo giustamente la cittadinanza. Bisogna un attimo andare a constatare se chi richiede la cittadinanza conosce comunque un minimo gli usi e i costumi del paese, la lingua, eccetera, eccetera. Dico, a parte che ci sono tantissimi italiani che, proprio gli stessi italiani per nascita, non conoscono tanto bene la lingua, oppure non conoscono tanto bene gli usi e costumi di tutto il paese. Dico, questa diciamo è una nota. Volevo richiamare all'attenzione un caso che è tra l'altro molto recente, di un ragazzo albanese di 18 anni a cui è stata negata, diciamo, anche la richiesta di cittadinanza italiana perché è affetto da sindrome di Down. Quindi per esempio in questo caso abbiamo avuto una sorta di discriminazione nella discriminazione. Quindi questo ragazzo ha comunque seguito chiaramente le regole, la madre ha aspettato i 18 anni d'età. Ricordiamo che si hanno solamente 12 mesi al compimento del 18° anno di età per richiedere la cittadinanza, e questo ragazzo non l'ha potuto fare perché è stato, diciamo, definito incapace di intendere e di volere, quindi diciamo non aveva consapevolezza del giuramento che avrebbe dovuto fare. Quindi dico, questo è un altro dei problemi a cui siamo sicuramente chiamati a rispondere. E poi volevo anche rispondere invece alle diciamo polemiche che ci sono, a cui avete accennato all'inizio riguardo le parole di Grillo, no? Sì. forse. Io ho sentito dire spesso che le parole di Grillo riguardo questo argomento dello Ius Soli hanno, diciamo, destato qualche perplessità. Dico, se noi andiamo a leggere esattamente il post, tutte queste perplessità io non le riesco a leggere, nel senso che la proposta che viene fatta e che portiamo avanti noi da sempre, perché per tutte le tematiche più delicate, abbiamo sempre pensato che il coinvolgimento diretto dei cittadini è proprio la base da cui partire. Quindi le parole di Grillo non sono state né una chiusura, perché come abbiamo visto non c'è nessuna chiusura su questo argomento, ma semplicemente il sottolineare la necessità del coinvolgimento diretto dei cittadini. Quindi quando mi si viene a dire comunque che il referendum propositivo non è previsto, ed è assolutamente vero, infatti è uno dei punti del nostro programma, dico, anche la proposta dello Ius Soli in questa legislatura e in questo, diciamo, governo mi pare anche un po' surreale, nel senso che probabilmente questa proposta non vedrà mai la luce, sia perché non credo che dalla parte, diciamo, dello schieramento di destra ci sia tutta questa grande apertura, anche perché il governo ha la conformazione che sappiamo e il PD stesso non appare così coeso. Cattivo Luca Pinotti su Twitter, che scrive: per avere la cittadinanza italiana bisogna saper parlare italiano meglio di Razzi. 9 in punto. Abbiamo pochi minuti prima di chiudere, quindi prego tutti di essere brevi. E prima di andare da Gennaro Migliore voglio sentire brevissimamente Carla, che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Eccoci qua. Senta, innanzitutto io credo che ci sia un fortissimo business dietro a tutti questi immigrati che vengono, sono le IFAB, ci sono delle situazioni, insomma, quindi penso che c'è, non venga detto tutto. Poi un'altra cosa, non si corre il rischio che con questo viatico, diciamo, alla fine saremo sommersi da gente che viene qui, soltanto con fare, viene qui e poi comunque si mette a fare figli in continuazione e quindi... Vabbè, insomma, si mette a fare figli in continuazione, adesso non so in tutta sincerità, però c'è qualcuno come il Presidente del Senato Grasso che dice, insomma, rischieremmo di vedere un approdo continuo di partorienti, insomma, non l'ha detto proprio in questi termini, insomma, ha usato un'espressione simile, non molto felice a dir la verità. Migliore, è un'osservazione che viene fatta spesso questa, no? Dice, insomma, se... Sono rimasto sconcertato dalle parole del Presidente Grasso, perché finché è sulla bocca di una cattiva opinione bisogna, diciamo, reagire con strumenti culturali, magari avere la possibilità di intervenire anche sui centri di formazione dove a partire dalla scuola si maturano certe opinioni, però che lo dica la seconda carica dello Stato, soprattutto, devo dire la verità, nella sua funzione anche di guida morale mi ha veramente inquietato, anche perché invece su questo il Presidente Napolitano è sempre stato netto e assolutamente ineccepibile, e io mi sono sempre riconosciuto nelle parole del primo cittadino d'Italia, insomma, del Presidente della Repubblica, che peraltro richiama tutto ciò che non va, perché all'onorevole Bitonci, al senatore Bitonci, voglio dire che noi aspettiamo ancora innanzitutto una legge che recepisca l'articolo 10 della Costituzione sul diritto d'asilo, che si riformi la legge sulla richiesta di cittadinanza anche per le persone che sono sul nostro territorio. Io penso accorciandola, ma almeno, come diceva l'ascoltatore, rispondendo dopo i 10 anni, non facendo passare altri 10 anni per ottenere una risposta. E poi sulla vicenda di come far passare questa legge, io condivido le osservazioni che ha fatto anche lei sui bambini, bisognerebbe che anche il Movimento 5 Stelle, prima di preoccuparsi se gli altri partiti saranno d'accordo, inizi a sostenerla, in modo tale che noi ci troveremo nella condizione di avere una base di partenza che sicuramente alla Camera avrà la maggioranza, poi vedremo anche al Senato, io penso anche al Senato riusciremo a raggiungere la maggioranza su un argomento del genere, per cui non sarei io dall'opposizione a dovermi preoccupare se questo crea problemi all'interno dell'attuale maggioranza, anzi ritengo che questo sia uno degli argomenti anche per fare chiarezza. Giorgio da Roma, brevissimo. Buongiorno, brevissimamente. Sono peruviano, ho 3 figli nati qui a Roma e volevo affiancare, diciamo, al problema della cittadinanza anche il problema, diciamo, della identità delle persone, cioè di questi bambini. Cioè mia figlia una volta, diciamo, cantando, lei cantava l'inno nazionale italiano. E poi lei mi disse: papà, non ti preoccupare che dopo imparerò quello tuo. Cioè, questa bambina si sente italiana. Io che le devo dire quando mi dice: papà, chi sono io? Da dove sono? Grazie Giorgio. No, mi piace la testimonianza perché va un po' più a fondo, no, di qual è la questione, e si parla anche di persone oltre che naturalmente i problemi concreti. Bitonci, come sente? Insomma, vi sottopongo direttamente quello che ci arriva dagli ascoltatori, così come ho fatto con Migliore, con l'ascoltatrice da Roma che aveva un'opinione probabilmente parallela alla vostra. Prego. No, io ho ascoltato con attenzione l'intervento sia del rappresentante di 5 Stelle che anche di Migliore. Io penso che su alcune cose possiamo anche essere d'accordo, come ho detto prima, la riduzione dei tempi che effettivamente sono troppo lunghi. Per quanto riguarda i bambini, secondo me la cosa può essere tranquillamente superabile passando attraverso ovviamente la cittadinanza dei genitori. Però per quanto riguarda il resto, io penso e continuo a pensarlo. E così, non può essere superato. Bitonci, mi scusi se la interrompo. Vedrete che il Parlamento non passerà, perché l'ha detto anche il segretario Maroni stamattina, perché un discorso è quando lo dice Sello, lo dice parte del PD, ma vedrete che in Parlamento non ci sono i numeri giustamente per far passare una norma di questo tipo, perché gli italiani sinceramente non lo vogliono, perché forse qualcosa si può trovare, qualche soluzione per quanto riguarda i bambini, ma non sicuramente passare allo ius soli. Cioè, il nostro è un ordinamento che prevede lo ius sanguinis, c'è cioè in tutta Europa lo ius soli, c'è cioè solamente in America e in Francia, dove c'è una storia completamente diversa legata all'immigrazione. In America avevano bisogno di immigrati e per cui sono passati a quel regime. L'Europa è diversa, l'Italia è diversa, c'è un grave problema reato, anche legato al reato di immigrazione clandestina. Voglio ricordare che il ministro Kienge ha in questi giorni detto delle cose diciamo così fuori luogo, perché quando si parla di reato di immigrazione clandestina vogliamo ricordargli che c'è in tutta Europa, e in tutta Europa è molto più duro di quello che c'è in Italia, perché sia in Germania che in Inghilterra c'è da qualche decennio e viene applicato immediatamente con espulsioni. E quindi io trovo veramente che molte volte il buonismo che c'è da una parte della sinistra può creare dei gravi problemi legati anche alla sicurezza del cittadino, lo vediamo in questi giorni. Migliore 30 secondi per rispondere, perché siamo in chiusura davvero. Io sono solo per dire che bisogna essere dalla parte della ministra Kienge, soprattutto quando subisce degli attacchi vergognosi sul piano del fatto che lei è una donna e anche nera. Questo sinceramente io mi aspettavo anche dal suo collega ministro degli interni Alfano, questo mi aspetto anche dai colleghi parlamentari. Se ci sono delle distanze sulla politica si può sempre discutere, e io con Bitonci discuterò da posizioni diverse, ma prima la solidarietà, perché la ministra Kienge è oggetto di una infamante... Allora la fermo, migliore Bitonci, in 10 secondi, solidarietà alla Kienge per gli attacchi razzisti, no? Guardi che io ho tanti di quegli amici di colore, e se uno conoscesse anche la mia storia personale, per me io non vedo il colore, sinceramente lo vedono gli altri. E non quindi vedrà... solidarietà di Bitonci, sì. Guardi, mi tolgono la linea, grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo domani. Ricordati! Mancano 49 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.